e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quell'oscura costa, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì, ho bella tua parola intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltate offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che dorata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema ciò che tu ti solve, dirotti per chi io venni e qualchi intesi, nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandar io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciomi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non dell'avventura. Nella deserta piaggia impedito, sì nel cammin che volte per paura, e temo che non sia già sì smarito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata e con ciò che mestiera al suo campare l'aiuta, sì, ch'io ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno di luoco ove tornar di Dio amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacetti allora e poi cominciai io. Donna di virtù sola, per cui l'umana specie cede ogni contento, di quel ciel che a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'obbedir, se già fosse me tardi, più non te vuò caprir il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giù, in questo centro dell'ampio luogo ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, dirotti brievemente, mi rispose, perché ho un temo di venir qua entro. Temersi dè sol di quelle cose c'hanno potenza di far altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè è tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'est'incendio non m'assale. Donna e gentile in cielo, che si compiange di questo impedimento vi io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questo chiese Lucia in suo dimando e disse, ora ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al luogo dove io era, ch'io mi sedea con l'antica Rachele, e disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, cusci per te della vulgari schiera, non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana onde il mar non ha vanto. Al mondo non for mai persone ratte a far suo pro e a fuggir lor danno com'io dopo cotai parole tratte. Venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora a te e quei cudito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto, e venni a te, così come ella volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque che è? Perché ristai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai, poscia, che t'hai tre donne benedette curanti te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette? Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol gli imbianca, si drizzan tutti aperti il loro stelo, tal mi feci io di mia vertù stanca, e tanto buon ardire al cuor mi corse, che io cominciai come persona franca, o pietosa colei che mi soccorse, e te cortese cubidesti tosto alle vere parole che ti porse, tu mai con desiderio il cor disposto sì al venir con le parole tue, che io son tornato nel primo proposto. Or va, con sol volere d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro, così li dissi, e poi che mosso fue, intrai per lo cammin alte silvestro.